in quell'occasione, allora il discorso è diverso, evidentemente, nella valutazione nostra, mia. Grazie, professore. Grazie a lei. Cucine, living e bagno, una casa tutta Scavolini, il posto più bello per stare insieme. Vi ha presentato... Mix 24.